Il diletto moderno, in buona vena, promette spasso mentre e dopo cena. Che bravo avere nuovo piacere di nuovo invito al fior gradito. Dove ne amo, mi rischiegala. Innamorate, con noi tornate, vi parlo usco, a cena usco. Dimentichiamo che troppi siamo. Sopra tanto e sfogare orgoglio. Stil novello, gustoso e bello, in tanto andate felici siamo. Il fine del festino.